sera l'inverno. E allora buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16, sono le 15:08, oggi è il 4 di aprile, e qui in piena primavera, anche un caldo quasi estivo, e quindi buona libertà a coloro che ne sono privati o private. Dunque oggi vedremo, quest'oggi, questa trasmissione di oggi, vedremo un po' le situazioni che sono sempre più calde, e non per fatti meteorologici ma per le difficoltà che trovano coloro che stanno in carcere, quindi andiamo subito a vedere cosa succede nell'universo carcerario. Allora, non ci piace molto aprire con le situazioni che riguardano le morti in carcere, perché sembra chiaramente, è un dato che esiste, le morti in carcere, però non è bene, come dire, dare questo esempio come se la popolazione detenuta fosse completamente in balia di una disperazione che la porta appunto al suicidio, agli atti di autolesionismo, insomma a devastazione. Noi vorremmo sottolineare quei rari casi che pure ci stanno di, come dire, di ribellione, di organizzazione, di lotta, di reazione contro quelle gabbie tremende che sono il carcere. Stavolta però parliamo di un ragazzo morto, 36 anni, un'agenzia dice 36 anni, un'altra 33, comunque insomma, un giovane morto qui a Rebibbia, a Roma, e perché ne parliamo? Perché era ricoverato nel reparto, nella sezione psichiatrica della casa di reclusione di Rebibbia, quindi non al giudiziario ma al reclusorio, quello che si trova a via Bartolo Longo. Questo fatto ci fa riflettere su questa vicenda che da tempo cerchiamo di seguire, che è il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi della malattia mentale in carcere, reclusa. Già è un problema grave, il problema della malattia mentale, per come viene affrontato in questo paese, perché è uno stigma, è già quello un reato oggettivo, quasi, comunque un marchio, uno stigma da per separare, per inchiodare a una colpevolezza innata, insomma, queste persone, per di più quando sono appunto recluse, detenute, come il caso delle 1500 persone che sono rinchiuse negli ospedali psichiatrici giudiziari e che, come abbiamo visto, il governo ha fatto nel decreto diciamo sul carcere recentemente approvato, ha deciso di chiuderli entro il febbraio dell'anno prossimo, del 2013, e che però verranno sostituiti da una serie di micro strutture, di piccole strutture a livello regionale, non molto grandi, e che dovrebbero sottolineare l'aspetto della cura più che quello della reclusione. Strutture che però, quel decreto, l'abbiamo detto più volte in maniera molto preoccupante, la preoccupazione non è solo nostra, è di quasi tutti gli operatori intelligenti del settore diciamo della malattia mentale, che hanno espresso questa preoccupazione, perché la formulazione del decreto governativo dice strutture che privilegino la cura piuttosto che la reclusione, ma che avranno anche, quindi all'interno saranno delle piccole strutture di non più di 20-30 posti, all'interno saranno privilegiate la cura, però all'esterno recluse, quindi con un sistema di custodia all'esterno, quindi comunque reclusioni, anche se attenuate rispetto a quelle adesso, ma anche nei manicomi criminali, cioè negli OPG, in realtà è così, la custodia è esterna, non si può uscire, non si può entrare, non è che però nei reparti ci stanno le guardie, ci stanno gli infermieri, insomma, poi la differenza dai racconti di sofferenza in questi lager chiamati OPG o manicomi criminali da parte dei reclusi, degli internati, si chiamano internati, sappiamo quanto spesso gli infermieri esercitano nei loro confronti, nei confronti degli internati, una violenza spesso superiore a quella che potrebbero realizzare le guardie. Quindi non è tanto il problema del nome di dare a coloro che vengono a contatto, che devono in qualche modo controllare, il problema è di capire proprio, è un problema proprio culturale al fondo. In questo paese è stata completamente abolita la cultura che vedeva le persone che avevano, diciamo, dei disturbi psichici, dei problemi fisici, come persone che vanno comunque intanto emarginate e comunque separate dalla società e comunque violentemente portate, con un concetto veramente assurdo, un cosa molto, molto primitivo, molto, molto barbaro, riportata alla normalità, quindi imbottite di psicofarmaci oppure addirittura, come sappiamo, vengono ancora resi funzionali il letto di contenzione e anche lo shock elettrico, comunque elettroshock, insomma, come sapete, queste cose probabilmente spariranno, sia il letto di contenzione che lo shock elettrico. L'elettroshock, tuttavia, la contenzione sarà per un'altra via. Dicevamo, allora, a fianco di un detenuto normale, se questa parola si può usare per chi sta in carcere, che si è impiccato a Taranto, è venuto il 30 del mese scorso di marzo, un uomo di 40 anni si è ucciso impiccandosi nel bagno, c'è questo dato qui, e tra l'altro è venuto qui a Rebibbia, e sarebbe opportuno, prendendo spunto da questo fatto grave, la morte di una persona, a occuparsi di queste, della nascita, perché anche in questa regione nasceranno questi micro OPG. Il Lazio non ha un manicomio criminale, sono a Napoli due e in Toscana, però adesso invece con questa nuova legge anche nel Lazio dovranno sorgere questi micro OPG e vedremo come dovranno sorgere. Comunque la notizia è questa, questo uomo di 36 anni, un'altra agenzia dice 33, comunque nato a Napoli, è stato trovato morto, lui non si è suicidato, è stato trovato morto nella sua cella di Rebibbia. Era nella cartella aveva scritto questa dicitura che è molto tremenda, no? Anche questa, perché è un marchio, questo è uno stigma, minorato psichico, e vabbè, era in carcere perché ha fatto rapine e altre cose, ma aveva un fine pena del 2027. Un'agenzia dice sono in corso accertamenti, l'altra dice è morta durante il sonno. E il problema è che però fino a poche ore prima aveva addirittura stava bene, non aveva dato segnali di nessun tipo di problemi fisici, perché è morto mentre dormiva, quindi qualche cosa è successo il 3, quindi ieri, la notizia è di ieri, quindi è molto recente, vedremo l'inchiesta che dirà. E aveva addirittura giocato a pallone fino al giorno prima, aveva giocato a pallone, aveva partecipato a una partita di calcio nel passeggio, stava bene, stava tranquillo. Improvvisamente è andato nella sua cella, la sera si è messo a letto e la mattina è stato trovato morto. E intanto è la quinta persona che si toglie la vita qui a Roma, nelle carceri romane, il sesto decesso a Roma, il sesto decesso nella regione Lazio, il quinto nella città di Roma, quindi molto dall'inizio dell'anno, quindi molto alta. Il problema è che è chiaro che vedremo, aspettiamo, perché di ieri la notizia, l'indagine, l'inchiesta, però è chiaro che un un ragazzo di 33 o 36 anni che giocava a pallone, quindi fisicamente stava bene e non aveva mai dato segnali di problemi fisici. Aveva, i medici ritenevano che avesse dei problemi di carattere psichico, ma non assolutamente fisici, cioè nessuna malattia in corso, nessuna disfunzione né cardiaca né di altro tipo in corso. Improvvisamente si mette a letto a 33 anni o anche 36 e la mattina non si sveglia più. È chiaro che credo che probabilmente abbiano giocato un ruolo gli psicofarmaci con cui vengono imbottite queste persone, perché è difficile che si spieghi. Comunque aspetteremo l'indagine o perlomeno qualche elemento in più, però intanto volevamo collegare questa notizia a quella che, ricordate, l'avevamo detto molte volte, entro il 31 di marzo, quindi giorni ormai passati, il 31 marzo, il governo doveva predisporre all'interno di quel regolamento che diceva entro il febbraio 2013 dovranno essere chiusi gli OPG esistenti e le persone lì mandate in, a parte quelli che hanno avuto la dimissione, verranno dimissionati, quelli che invece hanno ancora la clausola di internamento dovranno essere trasferiti in delle strutture regionali, perché quindi a carico della SL, dell'azienda sanitaria che è appunto regionale, che dovrà predisporre queste strutture piccole, non più di 20-30 persone ciascuna, ovviamente in cui si privilegi la cura, che però saranno custodializzate all'esterno, quindi comunque con delle guardie e comunque con difficoltà di entrare e di uscire, anzi impossibilità. E insomma, allora c'è il primo aprile, ma non è uno scherzo d'aprile purtroppo, il ministro della giustizia di questo governo davanti alla commissione giustizia ha fatto una relazione, il termine relazionato è bruttissimo, lo usano loro, comunque ha fatto una relazione in cui ha detto che appunto nel pacchetto Severino, pacchetto quello delle svuota carceri, Severino è il ministro della giustizia che ha predisposto questo pacchetto fatto poi proprio dal governo, dovranno appunto predisporre questo regolamento con i quali andranno predisposti e costruiti questi micro PG per ogni regione. Manca poco tempo, perché nemmeno un anno, non sappiamo che cosa. Inoltre, sempre in Commissione Giustizia, il vice ministro della Giustizia ha sempre fatto una relazione in cui dice che il governo si sta attivando per iniziative in materia di leggiamo proprio le parole sue, iniziative in materia di depenalizzazione, però attenzione, non depenalizzazione di reati, perché questa non è di competenza del governo, ma sarebbe ovviamente di competenza del Parlamento, abrogare una legge oppure modificare una legge per cui quel tipo di comportamento non è più penalizzato, non risponde più al codice penale, ma diventa, per dire, per esempio una sanzione amministrativa o economica o pecuniaria o d'altro tipo, questo spetta al Parlamento modificare le leggi. E la depenalizzazione di cui qui si parla, che è iniziativa di governo, quindi non cambiamenti di legge, si tratta di loro intendono questo, ma pene, trasformare delle pene detentive carcerarie in pene detentive non carcerarie, per esempio gli arresti domiciliari, no, è una pena detentiva, scusate, perché conta ai fini di tutto, perché è come se stessi in carcere quando stai agli arresti domiciliari, conta per l'esecuzione della pena, per tutto il resto, quella è una pena detentiva, non carceraria. È detentiva perché tu hai degli obblighi e non ti puoi muovere, e così la detenzione domiciliare e altre, quella per esempio quello che riguarda i tossicodipendenti, la detenzione in comunità di, no, di cura oppure di, ecco, quindi vuole sviluppare, però non ci dice molto, vuole sviluppare iniziative in materia di depenalizzazione per trasformando pene detentive carcerarie in pene detentive non carcerarie. E allora in più vorrebbe sperimentare il meccanismo della messa in prova la messa in prova significa che praticamente si tratterebbe riprendere un po' il testo originario della cosiddetta legge Gozzini, quella dell'86. La legge Gozzini, le misure alternative alla detenzione in questo paese, in Italia, sono possibili ottenerle dalla semilibertà, il lavoro all'esterno, la libertà condizionale e così via, sono l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è quello più diffuso, sono misure alternative alla detenzione che si possono ottenere una volta che la persona è stata condannata in maniera definitiva, ha fatto un certo periodo in carcere. Ognuna di queste misure prevede la semilibertà alla metà pena e così via, no? Ognuna prevede un periodo di espiazione in carcere, dopo aver espiato in carcere si può ottenere la, quindi come parte finale della pena. Originariamente però la formulazione della legge Gozzini, scritta da Gozzini e Margare, quindi non era per niente simile a quella che poi è stata varata dalle Camere nell'86, diceva un'altra cosa, che era possibile ottenere in fase di giudizio, cioè il giudice che emette la sentenza nella condanna può mettere, avrebbe potuto mettere, questa è quella che non è passata allora nell'86, oggi si vuole ripristinare questa cosa, un po' come negli Stati Uniti d'America c'è già questa cosa, per esempio la messa in prova può essere, in genere al primo reato il giudice ti condanna, mettiamo a 4 anni di carcere, a 3 anni, a quello che ti condanna, però dice questa misura non la vai a fare in carcere. Questi 4 anni li passi in prova, te la do direttamente io, non attraverso il carcere, direttamente in sentenza ti mette questa messa in prova, che può significare, secondo le clausole, ti dice per esempio 4 anni significa che non potrai allontanarti dal tuo comune, per esempio, o regione, quello che ti secondo, no, quello che vuole indicare il magistrato, il giudice. Avrai 2 firme, 3 firme la settimana, 1 firma, quello che sia, sono dei controlli particolari, l'orario di rientro a casa nel domicilio dovrà essere questo, ecco, ti dà direttamente però in sentenza, è la stessa cosa che qui si ottiene con l'affidamento in prova ai servizi sociali, lì la probation avviene direttamente in sentenza, può avvenire direttamente in sentenza. Ecco, vorrebbero ripristinare questo, per ripristinare quello che era nella formulazione originaria della legge cosiddetta Gozzini, e che però non è stata approvata dalle Camere allora, dal Parlamento, per cui la legge Gozzini opera soltanto nella fase terminale della pena, nella fase finale, mentre invece si vorrebbe ripristinare. Queste sono le due dove sta, e poi sostituire molte sanzioni penali in sanzioni pecuniarie, soprattutto fino a 4 anni, eccetera, eccetera. E questo però è soltanto un sommario, perché qui quello che la relazione che ha fatto il sottosegretario alla giustizia, alla Commissione Giustizia della Camera, più o meno è un sommario, non ha detto i criteri, non c'è niente dei criteri finora, almeno qua. Così come non ci sono questi famosi criteri che pure dovevano uscire entro il 31 di marzo, siamo oggi al 4 aprile, non ci stanno i criteri con cui dovranno essere costruiti questi nuovi micro OPG per ciascuna regione. Bene, queste sono quindi ciò che bolle in pentola per quanto riguarda l'universo carcerario. Ora qui, ecco, prendendo spunto, questa è una considerazione che facciamo noi, finora abbiamo detto quello che dicono loro, la considerazione è questa: se sia nel caso della chiusura degli OPG e quindi la formazione, la costruzione di questi nuovi micro OPG a livello regionale, sia per questo problema che mette in campo tutta la battaglia sulla malattia mentale, tutta la concezione, un problema anche culturale, eccetera, eccetera, e anche di rispetto della vita umana. L'altra parte pure di questa depenalizzazione in fase di esecuzione, non normativa, non di legge, ma in fase di esecuzione, quindi la condizionale in inizio pena, non alla fine della pena, ecco, sono cose su cui sarebbe opportuno sviluppare un grosso dibattito, una grossa presenza della realtà sociale, non lasciare quei 4 o 5 quelli che sono tecnici del governo a formulare delle cose, sarebbe opportuno che tutta la società entrasse in merito a questi problemi, perché riguardano ciascuno e ciascuna di noi, e formulasse le proprie idee. Invece non c'è assolutamente questo dibattito. Eppure è un'occasione, peccato, perché perderemo una grossa occasione. Sul primo punto, quello degli OPG, si tratterebbe di rilanciare la battaglia, quella degli anni 70, quella che portò alla chiusura dei manicomi, che produsse una, lo ripetiamo per l'ennesima volta, perché è uno dei rari fiori all'occhiello che ha questo paese, ha prodotto un'analisi e valutazione e cultura sul problema della malattia mentale tra i più, più vari, più alti nel mondo. Le elaborazioni fatte negli anni 70, quella che si chiamano impropriamente la legge Basaglia, tutto quel dibattito, quella vera battaglia, perché furono fatte tantissime manifestazioni, convegni. Io mi ricordo per esempio a Reggio Emilia, al manicomio di Reggio Emilia, manifestazioni che partivano da tutta Italia, si andava tutti lì sotto e si facevano ovviamente pressioni perché si chiudessero questi manicomi, ma si faceva anche un grosso dibattito, circolavano opuscoli, volantini, libri, discussioni fine, e si mise appunto una delle più grandi, sicuramente la più grande finora nel mondo, elaborazione sulla natura non reale, fittizia della malattia mentale, quindi sulla critica al concetto di malattia mentale per come viene concepito, come è stato concepito in questo mondo, perché non è che non esista la difficoltà, cioè i problemi di carattere psichico, ma a definirli malattia significa annoverare all'interno di un procedimento in cui c'è un medico che ha in mano il potere di capire tu che malattia hai, di darti farmaci, e c'è una struttura farmaceutica, quindi un impianto, un sistema capitalistico di multinazionali che producono questi farmaci. Ecco, questi due poteri, multinazionale dei farmaci e autorità del sapere, il medico, che sovrintendono la persona che ha dei disturbi, ecco, questa cosa è completamente da cancellare. Non esiste la malattia mentale in questa accezione, è un crimine soltanto nominarla. Esistono i disturbi mentali, ma che non vanno curati né col medico né con la con i farmaci, e vanno affrontati in termini relazionali. Sono problemi relazionali, di relazioni tra essere umano e essere umano, e quindi come tale all'interno di questo vanno affrontati. Ecco, questo bisogna riprenderla da lì, la battaglia, la costruzione culturale. E non c'entra, non vanno recluse queste persone, chiuse in un posto più o meno orrido come oggi. L'hanno detto loro, che l'hanno detto i senatori, che sono dei lager, non è una parola che abbiamo usato noi, stavolta l'hanno detto i senatori, portati dentro a quell'inferno, hanno detto ma questi sono lager. Perfino un senatore del PDL si è convertito quando ha visto quella cosa, ha detto ma io non sapevo che questo paese, leggete le testimonianze, è un senatore del PDL, quindi destra, un reazionario, una persona su tutti i terreni reazionari, però chiaramente quella, la parte di umanità che ancora aveva residuale all'interno, quando ha visto queste porcherie dei letti di contenzione, la gente che si strascinava per terra, gente che viveva sopra il proprio vomito, insomma, vabbè, ha detto ma questo è un lager, uno del PDL, ed ha detto che lui non sapeva, poverini, questi fanno i rappresentanti del paese, non sanno che cosa, vabbè, lasciamo stare. E l'ha detto, l'ha confessato, ma io non sapevo che in questo paese ci fossero questi lager, quindi è lì, da lì tutti quanti hanno detto vanno chiusi subito. Fretta di non affrontare, se non si affronta il problema appunto di che cos'è un essere umano, un uomo o una donna, quando ha dei disturbi psichici, e quindi come va affrontato, è inutile poi cambiare strutture, levare quei lager e fare piccoli lager, come diceva Dario Stefano dell'Aquila in quella lettera che abbiamo letto l'altro mercoledì. Lui nell'area campana napoletana si è occupato molto dei due, Aversa e Sant'Eframo, i due OPG che stanno in Campania, quindi li conosce, dice attenzione, questa legge rischiamo di non chiuderne i 6 che ci stanno, ma di produrne altri 20, perché tanti micro OPG. Quindi portare sul territorio questa vergogna invece di chiuderla, perché se non si affronta il tema della malattia mentale, quindi non si mette sotto feroce critica questo termine completamente criminale, indegno, ed anche di grande di crassa ignoranza, per chi pronuncia il termine malattia mentale, perché è un termine sbagliato, è un ossimoro. Ciò che riguarda la mente non può riguardare la malattia, sono due cose. Ciò che riguarda la mente riguarda l'essere umano e il suo mondo relazionale, la sua vita relazionale, affettiva, sessuale, economica, eccetera, sociale, insomma. Quello che riguarda la malattia è una cosa che per gli altri disturbi c'è questi due poteri, il potere farmaceutico e quello del sapere medico, che decidono che se tu c'hai l'ulcera vai trattato così e così in un certo modo, e quello li abbiamo lasciato fare. Non è detto manco che sia giusto quello, anzi non lo è giusto, però fino a lì voglio dire, l'ulcera, che ne so, il mal, ti rompi una gamba lì, hanno loro la delega, se la sono presa, noi gliela lasciamo di gestire il nostro, ma la mente no, la mente non gliela possiamo lasciare gestire alle multinazionali farmaceutiche che creano poi le malattie mentali, come ha detto una trasmissione che ha fatto di alcune puntate il martedì mattina da queste frequenze, da Radio Onda Rossa, e che ha spiegato bene i produttori di malattie, questo, che sono proprio queste multinazionali della farmaceutiche che agiscono sul terreno dei disturbi psichici, che sono tantissimi e vari, e probabilmente ciascun essere umano ha un suo disturbo psichico, solo che alcuni di questi vengono definiti incompatibili socialmente e quindi chiamati malattia e assegnati al sapere medico e a quello farmaceutico per essere schiacciati, e anche alle guardie, perché per essere reclusi. Ecco, questa cosa va affrontata con urgenza. Affrontare la critica al carcere senza affrontare la critica al problema, diciamo, a quello che viene dichiarato malattia mentale, è chiaro che rischiamo di non affrontarlo, perché anche se riusciamo a demolire, ed oggi con molte argomentazioni abbastanza facili, sono diffuse, a criticare a fondo, ferocemente, l'esistenza del carcere, una struttura ormai asociale, non più funzionale nemmeno alla società, quindi che dovrebbe essere abolita, però attenzione che al carcere si può sostituire luoghi di reclusione per le persone ritenute non compatibili, quindi quelle che hanno problemi psichici, che questi problemi psichici qualcuno li definisce non compatibili socialmente. Quindi attenzione che la critica al carcere, se non è affiancata dalla critica alla malattia mentale, è chiaro che rischiamo di cadere dalla padella nella brace. Allora, di nuovo in diretta, 15:37 minuti primi, Allora, ci è arrivata una lettera, ci sono arrivate tante lettere, tra queste ne abbiamo scelta una perché ci introduce a un argomento altrettanto scabroso, altrettanto interessante e che ovviamente meriterebbe e merita l'interessamento di tutti e tutte. La lettera è del 29 marzo, quindi recente. Carissima Scarceranda, e gli è arrivata Scarceranda e quindi sto leggendo la vostra testimonianza che c'è dentro al libretto è di Roberta che starebbe, sto leggendo la vostra testimonianza e di chi l'ha vissuta in prima persona. Mi trovo ristretta nel carcere di Rebibbia femminile e condivido ciò che fate per noi, ma da qui dentro purtroppo ognuno è per sé. Sto passando l'inferno essendo mamma di due figlie di 25 e 24 anni, io ne ho 47. La più grande è stata tratta in arresto, quella di 25 anni, come primo reato assieme a me il 13 gennaio. L'altra mamma di un bambino di 4 anni è ai domiciliari con il permesso di 2 ore al giorno da dedicare al bimbo. Mi chiedo, si può fare questo solo per aver risposto al telefono una volta? Vabbè, questo sarà evidentemente l'imputazione con cui l'hanno condannata, inchiestata e condannata, perché ci sarà una telefonata intercettata, eccetera. Per me non è la prima carcerazione. 10 anni fa ho avuto lo stesso procedimento dopo 3 anni di reclusione. In appello sono stata però assolta, poiché ero stata trovata in possesso di 2,5 grammi di eroina, essendo tossicodipendente. I signori che servono lo Stato hanno pensato di implicarmi in un maxi processo. Ora, dopo una comunità che ho vissuto in comunità, perquisizioni in casa e per strada, esito negativo, l'esito negativo è stato sempre. Vergogna che ti fanno vivere, la vergogna che ti fanno vivere. Mi ritrovo di nuovo punto e da capo. Mi chiedo, non sarà mai possibile un reinserimento nella società? Ma dove sta la società? Che cos'è? Belle domande. Nonostante lo Stato, vedete, il linguaggio è molto semplice, ma le domande sono profonde quanto un trattato di filosofia. Dove sta la società? Cos'è? Per chi sta dentro al carcere questa domanda è essenziale e diventa anche esiziale, cioè negativa, quando non ha risposta. Quando alla domanda dove sta la società non arriva la risposta di dove sta. Non si presenta, continua Roberta. Nonostante lo Stato è al collasso, mi viene da pensare quanto se magna su ogni detenuto, visto che qua dentro è un degrado. La fornitura di plastica, che pian piano è sempre di meno, 4 rotoli di carta igienico a testa al mese, probabilmente se ti scappa una volta in più al giorno, guai, non ti bastano, assorbenti un pacco di cui ne devi usare uno all'ora, di detersivi eccetera, tutto ridotta la fornitura. Non se ne parla, disinfettanti idem, se vai a chiedere ti rispondono fatti ridare da qualcuno, ma lo Stato non ha vietato di chiedere l'elemosina? Qui in questa situazione siamo tante. Questo questa è una piccola parte di ciò che succede tra queste mura. Amo l'Italia, non chi la governa. E come scrivete voi, silenzi assordanti, io inizio con le mie urla di madre, di donna, di detenuta, ma in primis come essere umano, iniziando lo sciopero della fame con la speranza che altri detenuti capiscano da ogni carcere d'Italia. Don Manforte, a chi da fuori ci aiuta, se potete fate sentire queste urla a tutti, spero di risolvere qualcosa per noi tutti. Gradirei una vostra risposta per questo mio scritto, saluti a tutti, abbracciandovi Roberta. Ecco, questa lettera a cui mandiamo saluti a Roberta se ci ascolta o se perché sta a Rebibbia femminile o se non ci ascolta, se qualcuna detenuta di Rebibbia ci ascolta, che gli porti i nostri saluti, anche l'incoraggiamento a resistere. Questa lettera, vedete quanto profondità si ha quando si misura con la propria condizione difficile, perché la colleghiamo a quest'altra notizia che viene dalla sull'Avvenire, un giornale cattolico. C'era un articolo ieri che parlava del fatto è un anno è stata varata la legge sulle detenute madri, ma ancora troppi bimbi sono in carcere. È passato quasi un anno, dice l'articolo, dal proclamamento della legge 62 del 2011, una norma che avrebbe dovuto scarcerare tutti i bambini costretti a crescere in una cella accanto alle loro mamme detenute. La legge è rimasta lettera morta, sono ancora 57 infatti i bambini fino a 3 anni che si trovano all'interno delle carceri italiane. Non solo, la mancanza del decreto attuativo, perché la legge prevedeva un decreto attuativo che non è ancora venuto, che avrebbe dovuto essere pubblicato 180 giorni dopo l'approvazione della legge, rende estremamente ambigua la norma. I 180 giorni sono passati, ne sono passati pure il doppio, ma ovviamente il regolamento attuativo non è venuto e quindi la legge praticamente è inoperante. Voi direte, ma come, il Parlamento decide una cosa e non la mantiene? Troppe ne fa. Loro pretendono che i cittadini rispettino la legalità, quanto a rispettarla loro lasciamo stare. E comunque non è un problema, come vedete il problema della legalità è un falso problema, il problema è semplicemente se loro avessero avuto, dopo fatta quella legge sulle detenute madri all'inizio del 2011, era marzo infatti, se avessero avuto una pressione così, vedete come si sbrigavano, altro che 180 giorni, non hanno questa pressione, quindi vabbè, finita lì. Poi appunto, siccome questa legge diceva, ricordate, ne parlavamo al suo tempo quando venne fatta, portava da 3 a 6 anni la vicinanza tra la nascitura e la madre, cioè tra il bambino e la bambina e la madre, da 3 anni la portava a 6 anni ed è giusto mantenere di più la vicinanza tra il bambino e la bambina e la madre, però in questo caso significa, se non fai uscire, non metti in moto il meccanismo per cui le detenute madri riescono a uscire dal carcere, è chiaro che porti il bambino in carcere e la bambina in carcere, questo è il meccanismo diabolico. Vedete, quando fanno le leggi, hanno fatto le leggi sotto una pressione che c'era minima di queste associazioni che soccorrono dei bambini in carcere. C'è stato fatto qualche convegno, hanno detto ma è una vergogna anche qui, no? Perché si rendono conto ogni tanto, ma noi non sapevamo che c'erano i bambini in carcere. Ma come non lo sapevate? Vabbè, quindi i soliti cialtroni politici come sempre, parlamentari quanto più di tutti gli altri lo sono, più di tutti gli altri. E vabbè, quindi facciamo, hanno fatto sta legge abborracciata come quella che appunto degli OPG, quindi andiamo avanti a impatti di carattere emotivo in questo paese, non a ragionamenti costruttivi. Allora, che brutti i bambini in carcere, facciamo sta legge. Il bambino deve stare, la bambina, fino a 6 anni con la madre e bisogna, la madre può avere gli arresti domiciliari al proprio domicilio e se la so cavata così. Poi, e per il resto si rimanda alle altre leggi, non sanno leggere o non sanno scrivere o non capiscono niente o si occupano solo dei soldi che riescono a prendere quando, perché non è che ci voleva un'aquila, noi l'abbiamo detto da quando è stata fatta sta legge, che le detenute madri che stanno con i propri figli in carcere non possono soffrire delle due, le sono due con questa, c'era già una legge di 10 anni prima della Finocchiaro, questa è la seconda. Non possono soffrire di quella perché queste leggi, rimandando i divieti di uscire, di andare agli arresti domiciliari per coloro che o non hanno un domicilio o sono recidive, è chiaro che 57 bambini con le loro madri stanno ancora in carcere e ci rimarranno, perché finché non si fa una legge che abroga la legge sulla recidiva, la Cirielli, perlomeno per le detenute madri la potrebbe abrogare, comunque quella va abrogata perché è una legge tra le più indegne, la peggior legge mai fatta da un secolo a questa parte, la cosiddetta Cirielli, la legge sulla recidiva. In questo caso impedisce, perché loro hanno fatto la legge sui detenuti madri che portava da 3 a 6 anni l'obbligo che il bambino o la bambina dovesse stare con la madre, però consentendo alla madre di andare agli arresti domiciliari o in altra situazione esterna al carcere, rimandava per i divieti alle altre leggi esistenti. Le leggi esistenti sono quelle, la Cirielli dice che, ossia la Cirielli è quella sulla recidiva, dice che tutti i benefici vengono bloccati se una persona è recidiva, e queste sono recidive, cioè hanno fatto un furto due volte, questo è, quindi o uno, anche lì è un problema è un mestiere, se volete, quello del parlamentare, se uno non sa scrivere, non sa leggere, non capisce niente, sa solo fare i conti delle proprie aziende, è difficile che, no, e infatti questa cosa, che se ne accorge, quindi l'Avvenire d'Italia, questo giornale, si è accorto che con questa legge, l'operatività di questa legge, di cui non è stato fatto il regolamento attuativo, intanto ha portato altri ragazzini in carcere. perché se, dovendo stare fino a 6 anni, quelli che a 3 anni erano stati mandati fuori, che non so, forse mandati dalle nonne, ma questi non c'erano neanche andati, sicuramente non andavano messi, non andavano in posti belli, andavano in qualche orfanotrofio o cose di questo tipo, e adesso sono però tornati in carcere, che nemmeno quello è un posto bello, vabbè. Insomma, con il risultato, dice quest'articolo, che oggi nelle carceri è possibile trovare anche bambini di età superiore ai 3 anni. Esatto, e l'avevamo detto, sì. E non ci vuole molto a capire le cialtronerie di questo sistema di potere, con questi uomini che stanno al potere, con questa loro incapacità, con questa cialtroneria. Cioè, è già capitato, leggiamo l'articolo, continuiamo l'articolo, attualmente c'è almeno un bambino con più di 3 anni d'età all'interno del nido di un carcere italiano. Lo sottolinea Lia Sacerdote, presidente dell'associazione Bambini Senza Sbarre. A un anno di distanza sono troppi gli interrogativi ancora aperti che lasciano un'ombra sull'efficacia di questa riforma. L'avevamo detto che era sbagliata. E questa è la prova dei fatti. Come vedete, il tempo, i fatti hanno la testa dura, diceva qualcuno. Infatti i fatti hanno dimostrato che quello, diciamo, era esattamente esatto. E la cialtroneria sta da quella parte. E anche da quella parte però della società che non si occupa di queste cose, che si occupa soltanto di pagalerate di qualcosa e che guarda soltanto al proprio micro interesse, finché non ci sbatte il muso, e a quel punto poi crollano, l'allarme è stato lanciato dall'associazione Bambini Senza Sbarre, che venerdì hanno organizzato a Milano un convegno dal titolo Bambini in carcere, un non luogo a procedere, eccetera, eccetera, per fare il punto sulla situazione. Questa legge, che era stata pensata per evitare il carcere a tutti i bambini, sancisce il principio che una donna che ha un figlio di età inferiore a 6 anni non può essere ristretta in carcere. Invece, dicono gli operatori, ci sono casi di bambini di 4 anni di età, uno in più di quanto fosse possibile con la legge precedente. L'allarme non viene solo dall'associazione, gli stessi operatori della giustizia, cioè quelli che stanno in carcere, sono perplessi perché vedono che i ragazzini arrivano in carcere invece di uscire. Un pasticcio, ma quale pasticcio? Che sono proprio criminali, incapaci, imbecilli, corrotti e criminali. Queste sono le quattro caratteristiche del ceto politico. E il problema è che li avete anche votati voi. Scusate se do questa accusa, ma è così. E che non li andiamo a tirar giù dalle sedie, non facciamo tutti i giorni, perché bisogna farlo 3 volte al giorno, presidi davanti al Parlamento per dire siete, appunto, ricordandogli questi 4 attributi, imbecilli, cretini, corrotti e cialtroni, incapaci di tutto. Ecco, altro che pasticcio. Allora, l'assenza di un decreto attuativo, continua l'articolo, puntualizzano le associazioni, lascia inoltre ampi margini di discrezionalità ai magistrati. Una legge scritta male, commenta Federica Giannotta, responsabile dei diritti dei minori di Terre des Hommes, che peraltro non garantisce la presenza della madre accanto al figlio nel caso in cui vengano ricoverato in ospedale, nel caso in cui il bambino... Questa anche cosa avevamo visto, perché se la so dimenticata. Allora, in quella legge, quella lì del 2011, la 65, quella dello scorso anno, che portava fino a 6 anni il limite della permanenza del bambino con la madre, diceva che non affrontava il problema che quando il bambino che sta in carcere si ammala e quindi viene portato in ospedale, devi permettere che la madre l'accompagni in ospedale, quindi esca dal carcere, vada in ospedale, perché il bambino o la bambina può uscire, non è carcerata formalmente. Devi permettere, perché un bambino o una bambina a quell'età, se sta in ospedale, ha ancora più bisogno di avere la mamma vicina, o no? Le capite queste cose? No? Capiscono soltanto i conti delle proprie aziende. Vabbè, non si sono dimenticati di mettere questa clausola, e quindi il bambino o la bambina che sta male vengono portati in ospedale, la madre rimane in carcere, e in ospedale quel ragazzino o ragazzina soffre il doppio, perché non avendo la madre vicino, in una situazione di difficoltà. Capite come stanno messi? Vabbè, e noi contiamo a non occuparci di queste cose di carcere, vabbè. Comunque, non è soltanto, pure qui l'articolo, io a venire... pure cattolici, comunque non è vero, non l'ha capito bene quei meccanismi. Non è che il problema è che manca solo il reato attuativo, il problema è che quella legge rimandava alle altre leggi esistenti e ai divieti sulle misure alternative, perché questa è considerata una misura alternativa, la mamma che può uscire con il bambino in situazioni diverse dal carcere. Rimandava le altre leggi che regolano le misure alternative, tra cui c'è anche la Cirielli, la legge sulla recidiva, che vieta, blocca tutte le misure alternative per i recidivi. Queste donne che stanno in carcere con i bambini, queste mamme detenute, sono tutte recidive. perché in genere sono state condannate per reati contro il patrimonio, che la cui recidività è abbastanza ovvia. Quindi anche qui non ha capito molto bene, rimanda tutto al fatto che manca il regolamento attuativo, ma non è così, vabbè. E allora dice qui tocca appellarsi alla sensibilità del magistrato. Qualche magistrato fa anche delle forzature, lo può fare, però chiaramente non tutti se la sentono di fare, però non è il caso di appellarsi alla sensibilità del magistrato. E vabbè, il nodo cruciale è l'urgenza di regolamentare le cosiddette casa famiglia protette. Anche questa è un'altra assurdità, cioè per permettere anche alle donne che non possono andare al domicilio, o perché non ce l'hanno, o perché il luogo dove abitano non è ritenuto domicilio, vale per esempio per le donne rom, il cui campo nomadi non è ritenuto domicilio, e oppure appunto le donne recidive, che hanno la recidiva e che non possono, gli si è detto facciamo le case famiglia protette, insieme all'ICAM. L'ICAM le prevedeva, sono più o meno la stessa cosa, gli istituti a custodia attenuata per mamme, sì, ICAM di proprio istituti a custodia attenuata per mamme, e le case di famiglia protette sono la stessa cosa. Le due leggi prevedevano questa cosa per sopperire a chi non avesse domicilio o a chi non poteva lasciare il carcere in quanto recidiva. Però questi ICAM sono dei carceri un po' diversi dal carcere, ma il problema che, come dire, il problema che il disagio che crea un bambino o una bambina di crescere i primi anni in situazioni di carcerazione è che l'assenza di potersi muovere liberamente nella città, andare a scuola, vedere gente, questo è il problema. La libertà è fondamentale per crescere, è sempre fondamentale per vivere, a maggior ragione è fondamentale per crescere. Quindi anche gli ICAM e le case, come le chiamano qui, famiglia protette, non sono la soluzione, sono una cialtroneria anche qua. Vabbè, tra l'altro ne stanno costruendo una qui al parco d'Aguzzano, e rovinando uno dei più bei parchi che ci stanno ancora qui nelle vicinanze di Roma, è vicino a Rebibbia, a Casal dei Pazzi, il parco d'Aguzzano, e rovinando, e non si capisce perché lo devono fare in quel bel parco, però che sarà sempre, avrà sempre le guardie intorno, poi comunque l'ICAM, perché istituto a custodia attenuata, non assenza di custodia, la custodia ce l'ha, è attenuata, cioè non sta davanti alla casa dove sta il bambino la guardia, però sta fuori al portone, quindi non è libero di uscire la mamma col bambino e andare al parco a giocare con gli altri bambini, a muoversi, andare al supermercato, a vedere la città come è fatta. Questi non ci capiscono. Due leggi, 2000 convegni, pagine e pagine, non hanno capito una mazza, per dirla così. 57 bambini e bambine stanno ancora in carcere, e ne aumentano, perché qui il caso a Milano, che si è trovato dei ragazzini di 4 anni che sono stati portati in carcere perché la legge dice che fino a 6 anni devono stare con la mamma, giustamente, ma fuori dal carcere, non dentro. Vabbè. E siamo proprio alla follia più trucida. Questo è un paese che dire che è di merda è dire poco, perché si fa un insulto alla merda, chiaramente. È un paese, vabbè, che i parlamentari sono quella robaccia lì, peggio dei fascisti, tutti, che i funzionari dei ministeri non ne parliamo, uguale, e però pure la cosiddetta società è abbastanza cialtrona, perché non si occupa di questi problemi. Fa finta lì, li butta dietro le spalle. Just one light, television burning in another room. I couldn't sleep, so I put on some of your Hollywood perfume. Like Sugar Ray, feeling dizzy, began to swim. Was it his punch or was it just your Hollywood perfume? These paper thin walls make me party to calls of love waft into the room. At night, jasmine bloom of your Hollywood perfume. Allora, ci dispiace sfumare questa bella voce, ma manca, siamo in chiusura. Ricordiamo che appunto ci ha telefonato un ascoltatore che appunto vuole approfondire il problema della costruzione di questo ICAM, questo istituto a custodia attenuata qui nel parco di Aguzzano, qui in zona Roma, appunto zona Re Bibbia Roma, Casal dei Pazzi, e ci sono diversi comitati di cittadini che stanno lottando contro e volevano precisare, perché appunto hanno visto i progetti e questa, come avevamo previsto noi, in realtà sono veri e propri carceri questi ICAM, ci stanno le guardie, ci stanno le guardie armate intorno, quindi si militarizza uno dei pochi parchi in questa zona della città, nella zona tiburtina della città, che appunto è un peccato. A parte che l'ICAM si può fare ovunque, cioè non è una palazzina, però poi non è quella la soluzione, il problema non è quella la soluzione, e come abbiamo detto, vedendolo nascere, cioè vedendo i progetti, in realtà hanno visto che sono dei veri e propri, sono strutture comunque militari con le guardie intorno, eccetera, quindi non è una soluzione, cioè rispetto al carcere la differenza è pressoché nulla. Il problema, cioè tra il nido di Re Bibbia e questa ICAM lì al Parco Aguzzano, la differenza per quanto riguarda le percezioni del bambino o della bambina sono pressoché nulle, non è quella la soluzione, non è nemmeno la casa famiglia protetta, casomai una casa famiglia per chi non ha casa, ma non protetta, cioè libera.